qui ci stava il pescatore che sta pescando nel canale, qui ci stava la famiglia che aveva il marito con i bambini in braccio lungo il naviglio che sfociava. Perché quando ammazzarono Paiani, che era l'unico che lavorava nella sua famiglia, ai due canali, credo si chiamasse Vilma, o Vilmona, perché era un po'. Gli assegnarono tutti i bambini e tutti parteciparono a dargli qualcosa, insomma un piccolo stipendio, perché purché tenesse i bambini, facesse una sorta di dopo scuola, quindi potremmo chiamarlo scuola dei due canali. Perché Ferrari, la Ficina, nasce ai due canali, anche se i due canali sono di là. Se tu vai alla fine dei due canali, guardi là dalla strada, vedi un taglio, sulla destra ti trovi quello delle biciclette, sulla sinistra un'altra casa, ma a metà tu vedi l'officina di Ferrara. I canali sono stati chiusi a suo tempo, ma quando Ferrari era giovane ci correva per allenarsi, che vedevi i barcaioli che raccoglievano il ghiaccio, riempivano le barche per portarle alla ghiacciaia, perché c'è la ghiacciaia proprio attorno a Ferrari. È la storia di questo quartiere là. Tutte le acque di Modena, sia le acque chiare che quelle scure, arrivano qua. È la parte nord di Modena, quella che riceve tutte le acque. Ai due canali ce n'era uno di acque scure, quello che scende dal canale San Pietro, che percorreva l'attuale Ciro Menotti, e quella di acque chiare, che veniva chiaramente dal centro, e sfociava sotto dentro nel naviglio, in quello di acque chiare. Da bambini ci facevamo il bagno. Poi quello che c'era dentro nell'acqua, la Gendono finalmente, anche se non specifica la vita sotto l'acqua, ma poi parlano sempre dell'acqua del mare. Secondo me o fanno finta di non sapere, oppure non lo sanno, che molti pesci venivano a deporre dal mare le uova nei fiumi per poi tornare al mare. Ma se non possono più venire a deporre le uova nei fiumi, come fanno a tornare al mare?